Antonella Barina, Lobaris Nainé, è poeta, drammaturga, giornalista ed editrice contemporanea ancora vivente. Nata a Venezia negli anni 50, da più di 30 anni studia il mito e cerca le tracce soprattutto della Grande Madre, attraverso ricerche e viaggi in diversi continenti. La sua poesia, pubblicata in monografie, riviste e miscellanee, passa dalla ricerca dell'identità alla poesia del territorio, dal diario di viaggio alla denuncia sociale, fino alla sfera astrale e del sogno. Negli anni 90 la poeta ha cominciato ad autoeditare alcune sue raccolte poetiche e dai primi anni 2000 pratica continuativamente l'autoeditoria cartacea e web con il nome di Edizione dell'autrice. Antonella Barina si avvicina alle parole come una sciamana si avvicina a un luogo sacro della natura. Chiede il permesso, ne riconosce il potere, fa un'offerta e poi officia la cerimonia. Le parole nelle sue mani diventano il suono del tamburo e delle maracas, cullano l'anima e la riconducono a un tempo in cui il significato non era importante, però sì lo era l'evocazione che i suoni operavano. Ogni parola è strumento di potere. Il suo suono è vibrazione, è guarigione, è creazione. Quindi usare le parole, comporle, equivale a recitare preghiere che vanno dritte al segno e Antonella Barina lo sa fare molto bene. Ella dà il meglio di sé nelle sue canzoni e soprattutto nei landais, brevi componimenti poetici di matrice popolare e originaria delle donne Pashtun, che li utilizzavano in segreto per denunciare le violenze e i soprusi a cui erano sottoposte. La difficoltà poetica dei Landais è la regola di esprimere l'emozione in soli due versi, il primo di 9 sillabe e il secondo di 13. Antonella Barina è, a nostro avviso, tra le maggiori poete contemporanee, a cui dovrebbe essere data molta più visibilità di quanta non ne abbia. Per questo motivo, la Scuola delle Donne le dedica un'ampia antologia. Da Devana, buon ascolto.